Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Un buon pomeriggio, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Benvenuti a Nessun luogo è lontano, il nostro sguardo al di fuori dei confini italiani per comprendere meglio l'attualità internazionale. Con me ci sono Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli in redazione a confezionare anche la puntata di quest'oggi, Roberta Fisani che le darà musica e ritmo. Le coordinate per interagire con noi ormai le conoscete, ma ve le ricordo ugualmente. 349-238-6666 i vostri sms. Potete cinguettare all'indirizzo Twitter Giampaz oppure Nessun luogo 24. E se i commenti sono un po' più lunghi, Facebook, la pagina è Nessun luogo lontano trattino Radio 24. E la puntata di quest'oggi la voglio iniziare dal Sud Sudan. Cette fois, les médiateurs internationaux ont fait pression et les États-Unis menaçaient le pays de sanctions si aucun accord n'était trouvé d'ici lundi. Mais dimanche, Salva Kiir s'est montré sceptique. Se andate a cercare su Twitter, una delle foto più twittate sul tema Sud Sudan è quella stretta di mano tra Salva Kiir e il suo vice ex, ormai leader dei ribelli, quella stretta di mano a cui però non è seguita una firma. La firma doveva essere un trattato di pace per mettere fine a una guerra civile che ormai dura da 2 anni, che ha fatto migliaia e migliaia di morti e decine, centinaia di migliaia di sfollati. Una guerra che sta toccando il più giovane paese africano. Il Sud Sudan, il più giovane paese africano, nasce nel luglio del 2011 a seguito di un referendum in cui il 99% della popolazione si è espresso in favore dell'indipendenza dal Sudan. Nonostante l'abbondante presenza di petrolio, l'elemento cardine della sua economia, il giovane Stato rientra nel numero delle nazioni meno sviluppate al mondo. Su 11 milioni di abitanti, il tasso di alfabetizzazione raggiunge appena il 27%. La storia del Sudan prima della secessione è segnata dal perdurare di conflitti interni, generati da divisioni sia etniche che religiose. L'indipendenza del Sud Sudan non ha però segnato la fine delle violenze. La crisi attualmente in corso è esplosa nel dicembre del 2013, quando il presidente sudanese Salva Kiir ha accusato il suo ex vicepresidente Riek Machar di un complotto ai suoi danni. Non è chiaro se un colpo di Stato fosse effettivamente in atto, ma ciò che è certo è che il conflitto politico non ha tardato a trasformarsi in un nuovo conflitto etnico. Kiir appartiene infatti al gruppo etnico più numeroso del paese, i Dinka, mentre Machar ai Nuer, secondi per numeri. L'esercito si è spaccato, dando così inizio a una sanguinosa guerra civile. Ad oggi, circa 2 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, mentre i numeri dei morti continuano ad aumentare. Questa è una prima fotografia che riguarda il Sud Sudan, anche quella notazione della guerra su base etnica andrà probabilmente rivista grazie agli ospiti che di qui a poco vi andrò a presentare. Però la notizia qual è? Che Salva Kiir ha deciso di prendersi più tempo per firmare quell'accordo di pace. È stato un colpo di scena ad Addis Abeba durante appunto i colloqui di pace. E chi li ha seguiti da vicino è Irene Panozzo, consigliere politico per il rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Corno d'Africa. Irene Panozzo, buongiorno, benvenuta a Nessun luogo lontano. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Irene, hai seguito molto da vicino i colloqui. Che cosa è andato storto? Perché Salva Kiir non ha firmato? Penso che semplicemente il presidente abbia deciso di non firmare perché sottoposto a una forte pressione da parte di una serie di persone del suo entourage, che si sapeva purtroppo fin già da qualche mese, ma soprattutto nelle ultime settimane, quando i negoziati sono ripresi ad Addis Abeba, erano contrari a un accordo di pace, a una firma. E così purtroppo è andata, nonostante tutte le pressioni che sono state fatte dalla regione in prima battuta, quindi dai paesi confinanti, Uganda, Sudan, Etiopia e Kenya, che attraverso l'organizzazione regionale IGAD sono stati alla guida del negoziato e della mediazione fin da quando la guerra è iniziata nel dicembre del 2013. E oltre ai membri dell'IGAD e ai paesi confinanti, la pressione è stata molto forte anche da parte di tutti gli altri partner internazionali: l'Unione Africana, noi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Norvegia, le Nazioni Unite, la Cina, che si è espressa molto duramente in queste settimane a favore, chiedendo che entrambe le parti firmassero un accordo. Ma evidentemente tutto questo non è servito e quindi adesso ci troviamo con un accordo di pace che forse non è perfetto, ma sicuramente poteva essere un modo per ricominciare, per azzerare la situazione e cercare di far riavviare il paese, e che è stato firmato da due delle tre parti negoziali, ma non dal governo, che però in questo caso ovviamente è la parte più importante, perché non si può pensare di dare attuazione a un trattato che prevede la creazione di un governo transitorio se il governo attuale non è firmatario. Sì. Quanto sei fiduciosa che da qui a pochi giorni, a poche settimane, si possa giungere a un compromesso? Ricordavi due delle tre parti. Allora, Machar ha firmato anche Pagan Amul, che è il segretario generale del Sudan's People Liberation Army, e quello che non ha firmato è appunto il presidente in carica, Salva Kiir. Grado di fiducia che la cosa possa rientrare? Beh, questa è una domanda molto difficile. Purtroppo diciamo che le indicazioni che arrivano dagli ambienti appunto vicini al presidente, dagli ambienti del governo di Giuba, per il momento non sono molto incoraggianti. Ci sono, per fortuna, a questo punto il calm down è già partito lunedì sera, quindi ci sono per fortuna ancora 13 giorni, perché il presidente dovrebbe firmare entro il 1 settembre. Sì. E questa è la nuova data che gli è stata data. E quindi speriamo che in questi 13 giorni che rimangono le cose possano cambiare, anche gli equilibri interni alla compagine di governo qui a Giuba possano cambiare, perché è abbastanza evidente che in realtà alcune persone anche all'interno dello stesso team negoziale del governo ad Addis sarebbero state in favore di una firma. Ma poi così non è andata, per cui insomma saranno sicuramente settimane intense di attività diplomatica da parte di nuovo della regione e di tutti i partner coinvolti, nella speranza che entro il 1 settembre il presidente possa tornare ad Addis e firmare la pace. Sì, nel frattempo gli Stati Uniti hanno già fatto sapere che il presidente deve firmare, altrimenti scatteranno delle sanzioni da parte delle Nazioni Unite, una immediata reazione piuttosto vibrante appunto da parte degli Stati Uniti. Adesso il lavoro tocca alla diplomazia e tocca anche a voi. Grazie a Irene Panozzo, che lo ricordo è consigliere politico per il rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Corno d'Africa, da Addis Abeba. L'abbiamo beccata appena atterrata a Giuba, e quindi i nostri auguri di buon lavoro e buona giornata, Irene. Grazie. Allora, per scendere meglio nelle pieghe di quello che è accaduto, o dovrei dire di quello che non è accaduto, perché la mancata firma rischia di procrastinare una situazione che dal punto di vista dei civili è ovviamente insostenibile. Questa guerra civile va avanti da oltre 2 anni, il Sud Sudan è molto spesso dimenticato dai media, noi siamo qua oggi per tentare di raccontarvela almeno un frammento, e ci aiuterà in questo racconto padre Giulio Albanese, che è direttore di Popolo e Missione, la rivista della CEI. Padre Giulio, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, padre Giulio, intanto un commento su questo fallimento dei colloqui. Se lo aspettava, è stato un colpo di scena come molti hanno detto, perché stavo raccontando di quella foto su Twitter in cui Salva Kiir e Mechai si danno la mano e però poi il presidente rifiuta di firmare l'accordo già firmato dalle altre due parti sul campo. Quanto l'ha stupita questo colpo di scena? Direi che il copione era già stato scritto. Dal mio punto di vista non sorprende affatto, anche perché non c'è la volontà politica di passare dalle parole ai fatti. E devo dire che non bisogna essere manichei, cioè dividere lo scenario tra buoni e cattivi. Davvero le responsabilità sono condivise. Ma per quanto riguarda Salva Kiir, direi il dato più importante da sottolineare è che non ha la statura politica, la leadership del suo predecessore, di John Garan, che è stato il vero leader del movimento, quello che poi ha trattato anche con il governo di Khartoum durante la lunga guerra civile con il Nord. Mentre Salva Kiir deve sottostare a quello che è il diktat del suo entourage, molto litigioso al proprio interno, John Garan, quando prendeva una decisione, la decisione era quella, e questa è la differenza. Sì. C'è poi un altro aspetto, a mio avviso, molto importante da sottolineare, che in Sud Sudan è stata offerta su un piatto l'autodeterminazione con il plauso, il consenso, l'appoggio della comunità internazionale, senza tener conto però di un aspetto fondamentale, che questo paese è nato senza che vi fossero delle formazioni politiche e dunque ammesso pure che vi fossero dei soggetti che, come dire, avevano un'inclinazione di questo tipo, comunque era su base etnica e questo è il risultato. Sì. Allora, una democrazia giovane, il ruolo, le dinamiche etnico-tribali, adesso ci arriviamo, però prima dobbiamo fare un passo ancora indietro e descrivere questo Sud Sudan, che dobbiamo ricordare ha importanti giacimenti petroliferi sul suo sottosuolo e in qualche modo si affida a Khartoum, quindi al Sudan, per invece la lavorazione del petrolio stesso. Questo è un particolare, si fa per dire, da tenere sempre ben presente come background. Anche se le cose dovrebbero cambiare, perché sappiamo che il governo di Giuba vorrebbe realizzare in tempi rapidi un nuovo oleodotto che dovrebbe portare il greggio al mare attraverso il Kenya. Questo naturalmente non piace, non è una cosa gradita al governo di Khartoum. Ovviamente a Khartoum questa cosa non piace, perché in qualche modo è la stampella necessaria per tutta l'industria petrolifera del Sud Sudan. Sono almeno due le grosse pipeline che dalla zona del confine del nord del Sud Sudan vanno verso Khartoum. La pipeline a cui faceva riferimento padre Giulio Albanese doveva passare dall'Uganda e poi arrivare fino a Lamu, quindi il porto del Kenya, per poi lì permettere, come dire, dare ossigeno all'industria e autonomia soprattutto all'industria petrolifera del Sud Sudan, e questo appunto è un tassello importantissimo per analizzare la giovane storia di questo paese. Proviamo a mettere insieme i due fattori. Abbiamo detto che la maggior parte dei ribelli che stanno con Machar sono di una tribù, mentre la maggior parte dell'esercito che ancora appoggia il presidente sono dei Dinka, Nuer e Dinka rispettivamente, da una parte all'altra. Questa griglia, questi sono un po' i due gruppi prevalenti, ma poi ce ne sono tanti altri: ci sono gli Shiluk, ci sono i Topos, ci sono gli Acholi, ci sono altri, gli Azande, tanto per citare un altro gruppo. È chiaro che la leadership politica dell'SPLA, dell'Esercito di Liberazione Popolare del Sudan, quello che ha combattuto contro Khartoum dal 1983 fino al 2005, fino agli accordi di Nairobi, lo zoccolo duro era composto dai Dinka, non c'è dubbio. Però c'era anche una componente Nuer che si faceva sentire, a quei tempi capitanata da Riek Machar, che poi è diventato il vicepresidente del Sud Sudan. Purtroppo tra questi due personaggi ci sono vecchie ruggini, antiche ruggini, anche personali. Poi ci sono anche altri interessi, perché giustamente lei ha fatto riferimento al discorso del petrolio, che nelle vicende sudanesi, anche in riferimento alla prima guerra di indipendenza, quella esplosa, pensi, nell'agosto del 55 tra nord e sud, quindi prima dell'indipendenza avvenuta il primo gennaio del 56, è andata avanti praticamente fino agli accordi di Addis Abeba, quindi parliamo del 72. Poi ci sono stati 10 anni di relativa pace e poi la guerra è riesplosa in modo cruento nell'83 fino al 2005. E il petrolio, il greggio ha sempre rappresentato, come dire, un fattore altamente destabilizzante, anche perché, questo è un aspetto che solitamente, come dire, i cronisti non tengono in debita considerazione, sì, il primo attacco che i ribelli dell'STL fecero contro i governativi fu proprio nella regione dell'Upper Nile, vicino a un villaggio che si chiama Chevron Village, non lontano da Bentiu, nella zona dell'Upper Nile, proprio dove c'era il primo pozzo che, bene ricordare, scoprirono gli italiani, sì, e che poi invece la concessione passò agli americani, alla Chevron. E il petrolio purtroppo da questo punto di vista continua a rappresentare ancora oggi un fattore destabilizzante, anche se è avvenuta l'indipendenza del Sud, anche se è avvenuta l'autodeterminazione delle regioni meridionali. E si è ancora aperto il dibattito, sì, sulla spartizione dei proventi tra il Nord e il Sud, e si è aperto un nuovo dibattito sulla spartizione dei proventi all'interno dei vari gruppi etnici. E questo è un aspetto, a mio avviso, che nella trattativa non può essere sottovalutato. Assolutamente, assolutamente no. Cerco di riassumere, padre Giulio, ma mi bacchetti se sbaglio. Abbiamo due leader che, come dire, hanno delle frizioni fra di loro. Uno è il presidente in carica, l'altro è l'ex vicepresidente. Ora guida una formazione ribelle che fa gioco, utilizza una leva evidentemente etnica, tribale, per accentrare verso di sé parte dell'esercito da una parte e dall'altra, e questi, gli anfibi di questi due eserciti camminano su un sottosuolo ricco di petrolio, soprattutto nel nord del paese. Quanto sta arrivando a controllare la formazione ribelle dei pozzi petroliferi, che prima erano del Sud Sudan e adesso c'è un grande punto di domanda? Sì, perché quella, la zona dove loro operano è quella dello Unity State, la zona dell'Upper Nile. Lì c'è una concentrazione notevole di greggio, anche se poi il greggio è presente anche in altre zone, addirittura al confine con il Kenya. E adesso, devo essere molto sincero, nessuno ha una sfera di cristallo per poter prevedere cosa succederà domani. Una cosa è certa, sarebbe auspicabile maggiore coerenza da parte della comunità internazionale. Voi prima avete citato giustamente la presa di posizione del governo di Pechino, sì, il quale dice questi due la devono smettere di litigare, bisogna fare la pace, e bisogna fare la pace dal loro punto di vista perché c'è il greggio da pompare, da tirare su, da vendere. E questo, mi creda, è lo stesso ragionamento che fanno altre grandi superpotenze. Sì. Il problema di fondo qual è? E che però da quando è esploso il conflitto, vale a dire dicembre del 2013, ci sono grandi potenze come la Cina che hanno continuato a vendere armi, hanno venduto armi in quantità indicibile, per esempio al governo di Giuba. Quindi questi da una parte dicono che devono fare la pace e dall'altra li hanno messi questi mesi nelle condizioni di continuare a farlo. Allora, peraltro, padre Giulio, l'ambiguità delle potenze e anche degli stati vicini si è palesata quando qualche mese fa, anzi in realtà ben più di qualche mese fa, l'ingresso di truppe governative ugandesi, quindi di Kampala, erano entrate ufficialmente per salvare i cittadini ugandesi, no? dagli scontri, metterli in sicurezza, e poi dopo poche settimane il velo di Maya si è squarciato e evidentemente Kampala stava appoggiando le truppe di Salva Kiir. Guardi, il grande sogno, il grande sogno maturato direi alla fine degli anni Ottanta, Museveni, l'attuale presidente dell'Uganda, prese il potere nel gennaio del 1986, ricordo bene a memoria la data perché ero lì a Kampala. Sì. Bene, Museveni fece capire subito che sua intenzione era appoggiare l'SPLA di Garan in funzione anti-sudanese, ma perché l'idea era quella poi in prospettiva di creare una grande federazione. Una federazione che peraltro è un sogno, un progetto che Museveni condivise a metà degli anni 90 con il vicino di casa, Paul Kagame, l'attuale presidente ruandese. Presidente ruandese. L'idea era quella di creare un grande Stato che includesse parte del Corno d'Africa, ma anche parte della regione dei Grandi Laghi. E diciamo che c'era l'appoggio a quei tempi da parte soprattutto del Dipartimento di Stato americano. E in effetti c'è un errore a monte, cioè se uno torna indietro con la moviola della storia, scopre che il Sudan è nato male, mi riferisco al grande gigante, sì, quello che c'era prima dell'autodeterminazione delle regioni meridionali. Perché? Perché negli anni 40, quando si svolse a Giuba la grande conferenza per studiare e mettere a punto l'indipendenza del Sudan, vi erano due correnti di pensiero. Vi erano alcuni diplomatici quali sostenevano, a mio avviso giustamente, che le regioni settentrionali del Sudan, l'attuale North Sudan, dovessero essere annesse al protettorato anglo-egiziano, mentre le regioni meridionali del Sudan dovevano essere confederate con l'Uganda. Ma questo proprio per ragioni linguistiche, etniche. Certo, per una continuità, chiaramente. Esatto, c'è una grossa differenza tra la popolazione sudanese del nord di Khartoum e quella di Giuba, ed è il motivo poi anche dell'autodeterminazione. Esatto, no? È la stessa differenza che c'è, per intenderci, tanto per aiutare i nostri ascoltatori a capire di che cosa stiamo parlando. Sì. È come se mettessimo insieme un abitante di Gela in Sicilia con un abitante della Lituania. Sì. Ecco, questa è la differenza. Sì. Sì. Davvero, e ci sono problemi linguistici e via discorrendo. Ora, il problema qual è stato? Che invece è stato creato questo Sudan in cui il nord di tradizione islamica voleva fin dall'inizio imporre il proprio diritto, la sharia, alle popolazioni del sud, a maggioranza animista e non cristiana, come spesso si dice, perché i cristiani, non dimentichiamolo, hanno sempre rappresentato dal punto di vista numerico percentuale una minoranza. Le immagini che nel 1990 il censimento che fu fatto parlava di circa la popolazione cristiana era attorno al 4-5%, mentre il resto della popolazione del Sud Sudan era di tradizione animista. Sì. E l'SPLA ha approfittato moltissimo, questo movimento ribelle capitanato, fondato da un certo Cherubino Boll, ma poi il comando è stato preso da John Garan e poi successivamente da Salva Kiir, quando Garan fu vittima di un attentato. Questo movimento inizialmente, bene ricordarlo, nasce durante la Guerra Fredda e dunque aveva una matrice fortemente marxista-leninista, tant'è vero che le proprie basi operative erano in Etiopia e godeva i benefici, l'appoggio allora del Negus Rosso, Haile Mariam Mengistu. Sì. Poi col crollo del muro di Berlino, l'SPLA, il movimento ribelle, che poi di fatto è diventato movimento politico MPLA, si è riciclato come portabandiera della cristianità, ma questo l'ha fatto per opportunismo, sì, per potersi contrapporre politicamente al nord. Ora, chiaramente il nord islamico, a mio avviso, anche nella trattativa tra Salva Kiir e Riek Machar, giocherà comunque un ruolo non importante. In certo. Questo momento diciamo che il nord è vincente, perché sta dicendo alle cancellerie di mezzo mondo: ve l'avevamo detto, i sudanesi non sono in grado di autogovernarsi, sì, e questo sì, è davvero un peccato. Io ringrazio padre Giulio Albanese per questa sua accuratissima analisi e anche questo excursus storico molto, molto interessante. Grazie. Padre Giulio Albanese, direttore di Popolo e Missione, la rivista della CEI, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Allora, questa era la prima pagina di Nessun Luogo è Lontano, dedicata alla crisi sud-sudanese, alla mancata firma per il momento. Ci sono ancora 13 giorni, evidentemente Salva Kiir si sta prendendo, come avete sentito, il suo tempo per discuterne con l'entourage. In mezzo purtroppo però ci sono i civili che continuano a morire, i sfollati interni che continuano a scappare e molto ragionevolmente ancora profughi e rifugiati che poi a volte troviamo sbarcare sulle nostre coste. Per questo vi abbiamo raccontato il Sud Sudan, una crisi apparentemente lontana, molto poco raccontata, ma come recita il titolo di questo programma, Nessun Luogo Lontano, il Sud Sudan, ahi noi, può riguardarci davvero tanto tanto da vicino. Allora, piccola pausa, l'informazione finanziaria, poi ahi noi, ci tocca raccontarvi un'altra crisi, non lo vorremmo, ma andiamo in Yemen. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, il vostro sguardo che va al di là dei confini nazionali per capire che cosa accade fuori dall'Italia e che impatto può avere anche su di noi. Vi accennavo che ci tocca tornare a parlare di Yemen. Da poche ore Amnesty International ha rilasciato un nuovo rapporto che punta il dito su entrambe le parti in conflitto: sono le forze fedeli al presidente e la coalizione guidata dall'Arabia Saudita, e il movimento Houthi che hanno preso il controllo della capitale Sana'a. Vi sono scontri in corso continuamente ogni giorno, morti ogni giorno, i bambini non vengono risparmiati, anzi sono fra le categorie più deboli e che purtroppo risentono maggiormente di questo terribile conflitto. Abbiamo richiamato Donatella Rovera, responsabile delle zone di crisi di Amnesty International, che già avevamo sentito qualche puntata fa. Rovera, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, Rovera, in realtà avremmo preferito non sentirla perché, insomma, voleva dire che la crisi era in via di risoluzione, ma mi sembra di poter dire che questo non è. Nel vostro ultimo rapporto voi puntate il dito su entrambe le parti in conflitto, ipotizzate anche crimini di guerra. Sì, i crimini di guerra sono ormai una certezza, non più una cosa ipotetica. E in realtà le parti in conflitto sono tre più che due, perché ci sono i gruppi armati degli Houthi, con loro parte delle forze armate, quindi queste forze armate fedeli al vecchio presidente Ali Abdullah Saleh, e che combattono quotidianamente per il controllo di varie città contro i gruppi armati fedeli al presidente attuale, presidente Hadi, che è in esilio in Arabia Saudita, con parte delle forze armate, perché quindi la metà delle forze armate sono rimaste leali al presidente attuale, al presidente in esilio, e le altre con il vecchio presidente. E poi ci sono le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita che bombardano quotidianamente, quindi i civili si ritrovano presi non solo tra due ma tra tre fuochi, perché sul terreno sono presi tra due fuochi, perché i gruppi armati pro e anti governo si lanciano mortai e missili Grad, quindi questi sono armi che sono molto poco precise, quindi quando vengono usate in quartieri residenziali, nel mezzo delle città densamente popolate, è un pericolo enorme per i civili, e infatti ogni giorno vengono uccisi dei civili. E in più sempre questi civili si trovano anche sotto i bombardamenti aerei che hanno certo colpito molti obiettivi militari, quindi base militari, campi militari, eccetera, però anche tantissimi civili. Io sono appena tornata dallo Yemen, ho passato un mese dal nord nella sì. città di Sada, poi alla capitale, poi nel sud, e ovunque ho trovato case di civili, scuole poi dove erano rifugiati i profughi, persone che erano scappate dalle zone giustamente dove c'erano le confrontazioni tra i vari gruppi e che pensavano di essere al sicuro per essere poi bombardati dalle forze della coalizione saudita, moschee, insomma veramente per i civili non c'è modo di mettersi in salvo, perché succede ogni giorno, i colpi vengono da ovunque. E quindi veramente sono loro che pagano il prezzo più alto. Sì, fra l'altro leggo dalle agenzie che la violenza sarebbe stata particolarmente letale nelle città meridionali, le città Aden, ma anche Taiz, che è forse la terza città del paese, disprezzo spietato e sfrenato per la sicurezza dei civili, avete detto in una precedente dichiarazione. Al 349-238-6666 intanto un ascoltatore chiede: ma in Yemen per cosa si combatte? Oro, potere, fede o tutte e tre le cose? Provo a riassumere brevemente, però Donatella Rovera, lei conosce molto bene la situazione, mi potrà correggere. Il movimento Houthi, che era di base nel nord del paese, lasciato fuori dai grandi giochi di potere, 2 anni fa marciò su Sana'a reclamando più diritti e un maggiore coinvolgimento da parte del presidente, e da lì poi insomma è iniziato la grande spirale della violenza. Oro, sì. Oro direi che non ce n'è tanto in Yemen, ahi noi. Fede, no. Forse potremmo dire, potremmo spendere una parola sul movimento Houthi, no? Che è sono di una corrente dell'Islam diversa rispetto alle forze sì. pro-presidenziali. Sì, gli Houthi sono essenzialmente Zaydi, che è una setta dell'Islam sciita. È evidente che c'è un problema, diciamo, a due livelli. Uno, perché giustamente gli Houthi sono stati perseguitati durante molti anni. Il precedente presidente Ali Abdullah Saleh fece 6 guerre contro gli Houthi, bombardò Sada, che è la città del nord, la culla del movimento Houthi, tantissimo, quindi insomma, durante anni e anni e anni. E poi adesso in più c'è una dimensione che era, se c'era, era insomma molto poco presente prima e che adesso prende dell'importanza, che è l'elemento sectarian del conflitto tra Islam sciita e sì, Islam sunnita, che ha ingolfato la regione ormai negli ultimi anni. L'abbiamo visto soprattutto in Iraq e in Siria, quindi paesi importanti della regione. E quindi il conflitto oggi in Yemen, mentre le guerre non sono una cosa nuova, le guerre locali tra diverse tribù, i conflitti in Yemen prima erano molto più tribali e adesso ha preso un colore molto più internazionale, peggioso, insomma, diciamo. È diventato uno scacchiere in cui si confrontano queste due grandi correnti con tutti i paesi che stanno le correnti dietro. Le forze che sono le forze che del presidente attuale, che sono sostenuti dall'Arabia Saudita, mentre il movimento Houthi, che è sostenuto fino a un certo punto almeno dall'Iran. Quindi si può dire che sono che così un po' una partita di football tra i due grandi poteri religiosi della regione, che si gioca in campo nel paese dello Yemen. Sì. E quelli che pagano il prezzo sono la popolazione civile yemenita. Grazie mille. Donatella Rovera, responsabile delle zone di crisi per Amnesty International, buona giornata e buon lavoro. Grazie. (349) 238-6666 per i vostri commenti o le vostre domande. Twitter Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24. Cambiamo pagina, adesso parliamo di immigrazione, è il momento di dare i numeri. Il numero dei migranti giunti in Europa nel mese di luglio tocca quota 107.500, una cifra record. A pubblicare questi dati è stata nella giornata di ieri l'agenzia europea Frontex. Da inizio 2015 sono stati complessivamente registrati 340.000 sbarchi, mentre nel luglio 2014 si attestavano sulle 123.500 unità, un aumento del 200%. Superata anche la soglia dei 280.000 arrivi, ovvero quelli registrati durante tutto il 2014. La rotta più utilizzata è quella del Mediterraneo orientale. La Grecia registra infatti a luglio 50.000 sbarchi, in maggior parte localizzati sulle isole di Lesbo, Chios, Samos e Kos. 34.800 arrivi anche in Ungheria, il punto d'ingresso in Europa della rotta balcanica. In Italia i migranti si fermano invece a quota 20.000, sottolineando un cambiamento decisivo nell'utilizzo delle rotte. Dall'inizio del 2015 ad oggi, gli arrivi nella penisola sono stati circa 90.000, mentre in Grecia hanno superato quota 135.000, un decisivo incremento rispetto ai 41.700 totali del 2014. Secondo i dati dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, la maggior parte dei migranti provenienti dal confine orientale dell'Europa sono di nazionalità siriana ed afghana, mentre quelli giunti in Italia sono per il 90% africani, in prevalenza eritrei e nigeriani. Cresce anche il numero dei morti nel Mediterraneo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, da inizio 2015 sono stati più di 2.000. Allora, questi sono i numeri recentissimi relativi al mese di luglio dell'immigrazione, che fotografano una tendenza dello spostamento del flusso dalla rotta mediterranea, quella del sud che parte dalla Libia, a invece quella dell'est, quella che arriva in Grecia, poi passa attraverso i Balcani per poi approdare in Ungheria, poi nel nord Europa e a volte anche in Italia. E chi ci segue ricorderà bene le puntate dedicate proprio alla rotta greca, alla porta greca, alle isolette Lesbos, Samos e Chios su tutte. numeri che molto spesso sui giornali, nei telegiornali, vengono associati alla parola emergenza, alla parola invasione. Allora Giancarlo Blangiardo, che è professore di demografia all'Università Bicocca ed è responsabile per la statistica della Fondazione ISMO e dei rapporti che annualmente vengono redatti dalla Fondazione. Buongiorno professor Blangiardo, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Sarà lui a aiutarci, perché la lente demografica può aiutarci a interpretare meglio i numeri. Innanzitutto professore, le domando nuovamente, ci siamo già sentiti l'anticipazione dell'una, ma quanto è critico, se lo è, rispetto all'uso di termini come emergenza e come invasione? Se può rispondermi con uno slogan. Dunque, il critico dipende tutto dalla portata che si dà ai numeri. Io credo che questi numeri segnalino della problematicità, ma non siamo certamente alla fase in cui ci si deve disperare o gridare aiuto, aiuto, stanno arrivando i turchi. Quindi è un fenomeno in evoluzione, è un fenomeno che va seguito con attenzione, però non assolutamente drammatizzato e va letto nella maniera corretta. Ecco, in questo senso la scienza demografica ci aiuta, perché le migrazioni e gli spostamenti dei popoli, delle persone, non sono certamente un fenomeno nuovo. Come la demografia ci aiuta a leggerlo? Quanto dobbiamo tornare indietro nella storia per comprendere meglio che non siamo di fronte a fenomeni nuovi, ma sono decisamente fenomeni strutturali? Io personalmente salto sulla sedia quando sento ancora nei titoli emergenza e immigrazione, perché sostengo che ormai l'immigrazione è strutturale, quindi emergenza è assolutamente una parola sbagliata. Professore. Ma allora, da sempre gli uomini si sono mossi sul territorio, questo era inevitabile, qualche volta spinti da situazioni di crisi o di difficoltà nei luoghi in cui stavano e ne hanno cercati dei nuovi, o semplicemente per tentare di migliorare la propria condizione, di interagire con altre culture, con altre realtà, quindi questo è sempre successo. Oggi siamo in un mondo che si muove più velocemente, che comunica più velocemente, che riceve più velocemente le informazioni, quindi è chiaro che in un mondo con queste caratteristiche anche la mobilità viene decisamente accentuata. Però non dimentichiamo che sulla Terra siamo 7 miliardi e 300 milioni di persone, e coloro che possiamo chiamare migranti, cioè che vivono in un posto diverso da quello in cui sono partiti, sono qualche centinaio di milioni, quindi non sono ancora numeri esagerati, per quanto in crescita. Quindi tutto questo va, secondo me, sempre letto con molta attenzione, e quando si parla dell'Europa, in Europa c'è mezzo miliardo di persone, 507 milioni di abitanti. Ora è chiaro che 100.000 unità in più o in meno indubbiamente non spostano nulla. Naturalmente sono delle persone, quindi vanno considerate come tali, e quindi va affrontato con tutte le attenzioni che merita questo tipo di fenomeno, però certamente non altera gli equilibri che si sono largamente consolidati attorno al mezzo miliardo di abitanti. Professore, stia con noi, adesso c'è l'informazione sul traffico, poi un'ultima domanda per lei. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Stiamo parlando di immigrazione, commentando gli ultimi numeri, gli arrivi di luglio, col professor Blangiardo, che è demografo all'Università Bicocca di Milano. Professore, tra gli analisti, tra chi osserva il fenomeno di immigrazione, c'è una buona parte di coloro che dice: attenzione, perché il saldo demografico italiano è pari a zero, gli italiani non fanno più figli, questo accade anche in tanti altri paesi europei, e quindi se non vi fosse immigrazione la popolazione italiana e di altri paesi europei andrebbe continuamente ad invecchiare, quindi l'immigrazione è assolutamente una risorsa necessaria e fondamentale. Lei come demografo cosa ne pensa? Allora, non solo è zero, è meno che zero, perché il saldo relativo alla popolazione complessiva, quindi nati meno morti, è negativo, ed è fortemente negativo quello che si considera, se si considera solo la componente con cittadinanza italiana. Quindi è chiaro che c'è un contributo importante dal punto di vista della tenuta della dimensione demografica del paese da parte dell'immigrazione. Nascono circa 80.000 bambini ogni anno e muoiono circa 5-6.000 persone tra gli stranieri, quindi è chiaro che c'è un saldo positivo di 75.000-70.000 abbondanti, e questo è un elemento importante. Però io credo che non vada visto solo in questi termini, cioè teniamo presente che la migrazione attenua indubbiamente il processo di invecchiamento, anche se non lo elimina, perché poi alla fine chi rimarrà qui invecchierà qui, quindi a lungo andare poi in qualche modo avremo degli anziani stranieri o ex stranieri. Quindi non è questo il punto, però ci dà tempo, nel senso che ci regala la possibilità di affrontare l'invecchiamento con meno patemi d'animo. Quindi grazie al contributo di questa forza giovane siamo in grado di muoverci con più con meno pressione e quindi cercare di trovare delle soluzioni per il progressivo invecchiamento che ci consentono di gestirlo, di governarlo decisamente meglio. Quindi questo è sicuramente un contributo importante che è già in atto, che sicuramente si svilupperà in Italia, ma direi più in generale soprattutto nell'Europa, perché l'Europa è, come l'Italia, un continente destinato a subire pesantemente il processo di invecchiamento. Certo, fra l'altro poi noi citavamo questo numero di 100.000, questo record di arrivi in un mese, ma in realtà non è dato sapere quanti di questi 100.000 potranno entrare in un processo virtuoso, integrativo in Italia e andare poi a contribuire. Molti dicono, e ha ragione guardando i numeri, che molti immigrati pagano la pensione agli italiani che sono invecchiati. È vero poi il fenomeno contrario, per cui a un certo punto questi immigrati, questi cittadini saranno poi vecchi, quindi qualcuno dovrà poi pagare loro le pensioni. Quanti, secondo lei, come si può, come la demografia ci aiuta a leggere questo fenomeno, quanti di questi 100.000 di arrivi, ad esempio a luglio, si fermeranno poi in Italia e faranno parte della forza lavoro qui in Italia? Beh, intanto chiariamo che i 100.000 arrivati a luglio non sono arrivati solo in Italia, ma no, in tutta Europa. Sono gli sbarchi italiani, è un discorso europeo, quindi 20.000 in Italia. Non sono numeri così drammatici. Alcuni di questi si fermano. Se noi andiamo a vedere, confrontiamo l'anno scorso i 170.000 che sono sbarcati in Italia e quante sono state poi le domande d'asilo presentate in Italia, sono 65.000. Quindi di fatto una buona parte di queste persone o non ha fatto domanda per i motivi che tutti noi poi ci siamo detti in tante occasioni, Dublino e compagnia bella, o semplicemente se n'è andata altrove, quindi in altri paesi europei. Quindi non è detto che chi arriva qui si fermi qui, questo lo sappiamo abbondantemente. Grazie allora a Giancarlo Blangiardo per questa sua prima analisi, professore di demografia alla Bicocca, responsabile statistica per la Fondazione ISMO. Buona giornata e buon lavoro, professore. Altrettanto buon lavoro anche a voi. Torneremo sul tema immigrazione al netto di polemiche e facili propagande. È chiaro che se il fenomeno viene analizzato a livello locale, c'è un ascoltatore che purtroppo in mezzo al messaggio sforna epiteti poco radiofonici, è chiaro che se andiamo a vedere un condominio in cui c'è un'alta percentuale di immigrazione, il fenomeno è molto visibile, e lì c'è un problema di pianificazione, c'è un problema da parte dei sindaci, da parte degli amministratori locali, da parte degli stati europei. È certamente un fenomeno che va gestito, ma io sono assolutamente contro l'allarmismo e contro chi dice c'è in corso un'invasione, c'è in corso un'emergenza, perché sono cose assolutamente lontane dalla realtà. Questa è la mia personalissima opinione, che è distinta dai fatti e dai numeri che vi ho raccontato prima. In chiusura però vi racconto un'altra storia. La storia è di un nuovo social network, nuovo, in realtà esiste da qualche mese, ma sta raccogliendo consensi in rete e nasce tra gli obiettivi, insomma, di questo nuovo social network, che si chiama The Shukran. Shukran in arabo vuol dire grazie. Tra gli obiettivi, c'è combattere quell'islamofobia strisciante che, complice alcune testate italiane, complice tanti episodi di razzismo e di ignoranza sui social tradizionali, su Facebook e su Twitter, purtroppo sta tornando alla ribalta. Allora abbiamo raggiunto uno dei fondatori, che è Ilyes Amar, e che ci ha spiegato che cos'è questo The Shukran. Sentite. The Shukran è un nuovo social network fotografico che consiste nell'informare, sostenere una campagna e mostrando la realtà appunto che ci circonda e ringraziando chi contribuisce a rendere vivo questo progetto, ovvero ogni singolo utente. È un social network nato dall'idea di giovani di seconda generazione. Questo social punta a valorizzare la coesistenza e la riconoscenza reciproca, che sono appunto due pilastri della nostra società. Possiamo dire che Shukran ha come intento l'antirazzismo? Certo, The Shukran appunto, come ho detto, ha come obiettivo appunto rendere viva la fratellanza, appunto la coesistenza che molto spesso, come sentiamo nei telegiornali, diciamo sta scomparendo. È una sfida, ci stiamo provando e ci stiamo riuscendo. Chi sono gli utenti di The Shukran? Gli utenti di The Shukran sono persone semplici. Diciamo che il prototipo di uno Shukran è una persona appunto che ha una voglia innata di conoscere, di condividere il proprio sapere, appunto di condividere la realtà che lo circonda. L'utente di The Shukran non ha livello di età, non ci sono limiti, appunto anche non ci sono nemmeno limiti dal punto di vista geografico. All'inizio è stato appunto nato in nei principali paesi, sono stati l'Egitto, l'Italia, la Francia, il Belgio, e piano piano si sta diffondendo anche nel resto del mondo. Infatti ultimamente abbiamo avuto un'ondata di iscritti dal Medio Oriente, dall'Afghanistan, dal Pakistan, e diciamo che è una bella cosa. Ci sono anche italiani? Italiani nel senso di non seconde generazioni, o gli italiani che ci scrivono sono tutti seconde generazioni? No, ci sono moltissimi italiani, diciamo italiani doc, cioè italiani non di seconda generazione. Diciamo che queste persone hanno deciso di accettare, tra virgolette, il mondo orientale, appunto perché The Shukran si propone come ponte tra due culture tanto diverse quanto simili, ovvero quella occidentale e quella orientale. Questo è The Shukran, lo trovate su theshukran.com, un social network che cerca di fare da ponte tra la cultura occidentale e quella orientale. Purtroppo dietro a rigurgiti razzisti e islamofobi c'è una profonda ignoranza rispetto alla cultura del diverso. Ha uno dei fondatori, che è Ilyes Amar. I fondatori, lo ricordo, sono quasi tutti ragazzi di seconda generazione, e molti degli utenti sono seconde generazioni, non solo in Italia. E quanta diffidenza c'è verso la cultura orientale? E se sì, ho chiesto a Ilyes Amar, è diffidenza verso la cultura orientale o verso l'Islam? Sentite. Come sappiamo, il tema dell'islamofobia è un tema ricorrente al giorno d'oggi, però noi il nostro obiettivo è quello di non mettere appunto la religione in primo piano, ma proprio le due culture. Diciamo che all'inizio sinceramente non c'è stata quella diffidenza verso il diverso, infatti siamo dell'idea che le idee parlano da sole e trasmettono messaggi che suscitano in noi emozioni spessorate, no? Appunto non lasciamo molto spazio alle parole, e queste immagini, diciamo, che stanno facendo il loro corso. Ci sono degli esempi di dialogo particolarmente virtuosi che a voi hanno fatto particolare piacere? Che ne so, un ragazzo cristiano che chatta con un ragazzo musulmano e un ragazzo buddista allo stesso tempo, non lo so, faccio delle ipotesi perché non ne ho idea. Se l'obiettivo è far parlare le culture, per voi qual è un esempio virtuoso che avete ottenuto? Beh, un esempio è stato, siccome su The Shukran è possibile lanciare e sostenere le campagne, abbiamo una delle prime campagne che abbiamo lanciato è stata Freedom in Egypt, libertà in Egitto, appunto dato che è un paese, diciamo, a maggioranza musulmana. Questa campagna ha riscontrato un gran successo sia appunto dalla parte orientale che dalla parte occidentale, e questo ci ha fatto molto piacere. Diciamo che appunto abbiamo lanciato questa campagna soprattutto contro la pena di morte che è stata inflitta al presidente deposto, Morsi, e a molti giovani, molti giovani innocenti che avevano appunto come obiettivo, l'unico obiettivo era la libertà. E noi abbiamo deciso di sostenere queste persone, sostenere questa campagna, appunto per dare voce e far sapere al mondo che anche The Shukran è presente ad aiutare il prossimo in pratica. Ci sono stati esempi invece che non hanno funzionato? C'è stato qualche problema? The Shukran esiste da qualche mese, credo, no? Sì, The Shukran, il lancio ufficiale è avvenuto 2 mesi fa. Sembra impossibile, però fino adesso non abbiamo riscontrato alcun problema. E appunto proprio perché le persone che ci iscrivono sono, tra virgolette, persone intelligenti, nel senso che scappano dai social, che sono sempre meno social, dove i discorsi sono futili e non rispecchiano appunto l'ottica della società di ogni persona. e appunto su De Shukran fino ad ora non abbiamo avuto alcun problema. Cioè, nella vostra idea, De Shukran dovrebbe essere un social ripulito da un po' di, perdonami il termine, un po' di fuffa e anche un po' di decadimento anche verbale, offese eccetera eccetera, razzismo e quant'altro? Esattamente, proprio appunto perché i nostri due pilastri sono i nostri due valori principali, che sono la coesistenza, appunto la riconoscenza reciproca. Mm. E non c'è il rischio che diventi un club in cui entra già chi è di quest'idea, cioè è per il dialogo, è per la diversità, eccetera, eccetera? Questo sì, hai ragione, questo è un rischio che stiamo correndo, però siamo dell'idea che rafforzare questi, appunto, questi valori, il valore soprattutto di fratellanza, verso le persone che possiedono già questo valore, secondo noi influenzerebbe indirettamente anche le persone, appunto, che non hanno questo valore proprio marcato nel cuore. E questa era la voce di Ilie Samar, uno dei fondatori di The Shukran. Dateci un occhio se volete, è un esperimento sociale, vedremo quanto successo avrà. Tra gli sms, purtroppo ancora una volta, tra epiteti poco ripetibili, c'è qualcuno che dice che l'islamofobia non c'è. Ma insomma, a me basta leggere alcuni titoli di giornale, i due me ne sono venuti in mente dopo La strada di Charlie Hebdo. Ricordo due quotidiani italiani che scrissero Macelleria islamica e anche Questo è l'Islam, quando la maggior parte il mondo musulmano si dissociò, ma non c'era nemmeno bisogno di dissociarsi perché quelli erano terroristi, punto e basta, e quanto tra le vittime c'erano anche dei musulmani. Questa esattamente è islamofobia, cioè utilizzare la religione per fini politici, per agende completamente diverse. E siamo in chiusura? Sì, titoli di coda. Grazie quindi a Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione, Roberta Frisani in regia. L'appuntamento è per le 23 con la replica questa sera, domani 6:30 la replica, quella XS in versione condensata, poi di nuovo alle 16 domani, Nessun luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.